Casualmente è venerdì, ed ecco la ragione per cui siamo qui. Siamo quelli del concerto giù in città. Sto presso di me per il palco dove si va. Manifesti live on stage. Si è fatto tardi per le prove delle sei. Per favore una fotografia, ma si figuri che vuole che sia. E poi dritti verso l'hotel. Pronti alle 8 giù nella hall. Dai fratello, riposati un po', che stasera ci aspetta un altro show. È un'onda che si va. Siamo in ritardo, ma sai che novità. Due minuti ancora e poi potremo dare il meglio di noi. Sopra un palco per tutto il mondo, e il concerto inizierà. Prima o poi ci diranno quando. Senti l'applauso su quella canzone che va. E poi si riderà viaggiando tra autogrill e nuove città. C'è qualcuno che sta aspettando il tuo ritorno dopo la pubblicità. Ma non è finita qua. Guarda quanta gente che non se ne va. La signora che ti svento al CD, firmi per lì tutto grande fan. Manicomio nel backstage. Mi sto cambiando in due minuti, me li dai. E due domande per Radio Mandù. Dai, me lo fate un saluto in TV. E finalmente mangiamo anche noi. Ordino lasagne che non sbaglio mai. E c'è sempre qualcuno che poi chiederà perché Eiffel 65. Di caffè e poi che si fa? Ci sarebbe quel locale là dove suona quel DJ. Si fanno di nuovo le sei. Sopra un palco per tutto il mondo, e il concerto riprenderà. Prima o poi ci diranno quando. Senti l'applauso su quella canzone. Il tuo ritorno dopo la pubblicità.